Buongiorno, è il vostro momento fortunato perché sta per iniziare i Fuori Posto. I Fuori Posto di Umberto Alezio e Filippo Roma. Buongiorno a tutti e benvenuti ai Fuori Posto, questa è Radio 24, come stai Filippo? Benissimo, anche questa mattina siamo qui per farvi compagnia e per parlare dei Fuori Posto che sono in noi, dei Fuori Posto che siete voi, perché caro Umberto, le persone che stanno a posto, in amore, nel lavoro, in famiglia, sì, stanno tanto bene, ma alla fine sono noiose, le persone che stanno a posto sono noiose, a noi piacciono i disadattati, quelli che stanno fuori posto, quelli un po' come noi. Concordo pienamente. E sai che pensavo ieri? Pensavo che a proposito di fuori posto, no? Uno può finire fuori posto anche se finisce fuori amore, no? Cioè se l'amore non c'era. Quello è tipo fuori posto peggiore, lo so. Ma non cominciamo, perché tu lo sai che quando mi parli del tuo amore perduto io... Vogliamo far partire il nostro momento fuori amore? L'amore perduto di Umberto Alezzi. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Sai che pensavo? Che non so se ti è mai successo, no? All'ansia del messaggio che non arriva mai, no? Quando sono stato lasciato, no? E tu sei testimone perché eri fianco a fianco con me sul posto di lavoro, ma nella vita. È stato un momento bruttissimo, ve lo posso assicurare, tremendo. Terribile. Io ho avuto l'ansia, tuttora ce l'ho, della telefonata o del messaggino che deve arrivare, ma che non arriva mai, no? È terribile. Tu l'hai mai provata quest'ansia? Ora sono sposato e quindi quest'ansia non la provo più perché mia moglie vede tutti i giorni. Ma da ragazzo mi ricordo che quest'ansia ce l'avevo pressoché tutti i giorni, perché tutte le ragazze che volevano mi mandassero un messaggio, in realtà quel messaggio non me lo mandavano mai. E quindi sentivi quel trillo sperando che fosse lei, invece magari era amico tuo, capito? E quindi era una tragedia. Io mi ricordo che quando lei mi ha lasciato, i giorni successivi, cioè anche quando ricevevo un messaggio, no? Stavo lì. Non lo guardavo subito perché mi godevo quei secondi dell'attesa, no? Certo, la speranza, l'aspettativa, forse lei. Forse lei, poi... ma per paura che non fosse lei, no? Non lo guardavo subito, no? E quindi mi regalavo quei 4-5 minuti di felicità, no? Di falsa felicità. Di falsa felicità, no? E pensa, nel momento più drammatico, tipo il giorno dopo, io le mandai un messaggio e spensi il cellulare, no? Per 5 minuti. Lo riaccesi e magicamente il classico suono, non so se ce l'ha Andrea dalla regia, quel suono magico che ti apre tutte le speranze, che ti apre il cuore, quel suono lì, sì, che ti fa capire, eccola, è fatta, il messaggio è arrivato. E invece vado a vedere e mortacci tua. Eri tu. Ero io. Pensate che delusione, cioè tu aspetti il messaggio che ti può cambiare la giornata e invece vedi messaggio Filippo Roma. Ma so fortuna, altro che. Invece, senti, ma vogliamo invitare i nostri radioascoltatori? No? Anche voi, raccontateci del messaggio che state aspettando da anni. Di quel messaggio che vi sta facendo tremare il cuore. Ma che anche aspettate, da qualche giorno, no? O da qualche giorno che non vi è mai arrivato. Ditecelo, scrivetecelo a iforiposto@radio24.it oppure anche via WhatsApp al 349-2386-666. Aspettare quel messaggio che ti può cambiare la giornata, alla fine è una cosa bella, no? Ma perché è più bella l'attesa alla fine del messaggio stesso. E il sabato del villaggio, no? Mazza, sei leopardiano oggi, porca miseria. Cioè, sono un coglione, so solo questo, io ho 3-4 frasi che puntualmente mi rigioco, ma poi dopo c'è il nulla praticamente. Ecco, ci scrive Francesca. Che dice Francesca? Gli uomini sono tutti porci. Vabbè. Per me una volta chiusa una storia non c'è modo di riaprirla. Che noia queste donne, che mamma mia come sono schematiche, chiudono la storia e mai più. Noi uomini invece siamo sempre aperti a tornare indietro, a ricominciare, a rifinire, a ricominciare ancora. Continua, il mio ex è uno stronzo. Mamma mia. E non gli darò mai più la possibilità di riavermi. Guarda, il tuo ex è fortunato che non ti ha più, perché veramente sei noiosa. No, non essere così drastico. Sei noiosa. No. Allora, io voglio essere più mediatore. Io ti invito a Francesca a dire al suo ex che magari con un caffè oppure con una cenetta si può, come dire, non dico risolvere tutto, ma quantomeno aprire un dialogo, no? Sì, comunque diciamo, Umberto, queste ragazze, queste donne che tanto ci allietano la vita, alla fine a volte ci rompono anche un po' le palle. E io so di persone che per aggirare questo ostacolo frequentano dei posti molto particolari dove sì. è tutto più facile, un mondo tutto più bello. Prima del mondo più bello, scusa, mi ha catturato. Scusami, scusate anche voi che ci state ascoltando sotto l'ombrellone. Ma no, mi incuriosisce questo messaggio perché è di una ragazza che dice: io ho inviato un messaggio all'uomo che amo, ma non ho più avuto nessuna risposta, no? Ecco, la cosa interessante, sai qual è? Che è firmato Ruby. Ah, e chi sarà quell'uomo? Cioè, sarà un caso di omonimia? No, sarà un caso. Ma secondo me è un caso. Vabbè, noi non sappiamo se è lei o no, però dico solo che se dovesse essere lei... Oh, e caspita, mo capisco tutti la cosa, però rispondile, no? Dai una rispostina. Comunque, beh, dicevamo, no? È molto faticoso avere a che fare con le donne, perché quando ci stai insieme poi ti lasci, quando ti lasci aspetti i famosi messaggini. C'è invece chi ha capito tutto dalla vita e ha cominciato a frequentare da un po' di tempo dei posti che io non sapevo esistessero, che si chiamano contact bar, giusto? Ma in inglese manco contact. No, non so cazzo l'inglese. Lesson number one, vai. Come si chiamano? The Contact Bar, giusto? Senza the, Contact Bar. Contact Bar, ecco. Che succede in questi Contact Bar? Allora, i Contact Bar sono dei bar, come dice, dove ci sono le troie. Cioè, per essere molto... cioè, tu vai a bere una cosa e poi ci sono tante signorine, tante ragazze che, insomma, ti abbordano molto facilmente e con in cambio di una somma che di solito si aggira, credo, intorno ai 100 euro, sono disposte a fare sesso con te, l'amore con te. Quindi tu vai in questi bar, le offri da bere, ci parli e poi c'è la possibilità di stringere, giusto? Sì, di acchiappare, sì. Di acchiappare. Ovviamente. E dove si trovano questi bar? Molti di questi sono oltre confine, in Svizzera, no? Appena passate il confine. Allora, noi avremo oggi un po' di protagonisti, no? Di questi posti. Di frequentatori? Di frequentatori. Molto interessante. Ma prima di tutto, no? Facciamo un passo indietro. Io vorrei dare il buongiorno a Cristina. Chi è Cristina? No? Cristina è la dottoressa Cristina Bellocchio, è una... psicologa nonché sessuologa. Ci sei, Cristina? Sì, buongiorno. Ciao Cristina, buongiorno. Grazie di essere qui su Radio 24 e Fuori Posto. Grazie a voi. Allora, facciamo questo esperimento, no? Se sei d'accordo, Filippo. Sì. Io direi, Cristina, tu stai muta, zitta, prendi appunti, scrivi e ascolta, no? E noi ospiteremo varie storie, no? Sui contact bar o su questi club che sorgono oltre confine, e poi tu prendi appunti e poi alla fine delle storie ci dici, insomma, cosa ne pensi, va bene? Tu analizza tutto. Ascolta poi, bene. Ascolta bene. Quando sei pronta, noi ti richiamo... Tu stai zitta, non, perché sennò gli non metti parlo. Suggestione. Non parlare, brava, certo. Ascolta. Quando ci sei, ci dai una tua analisi, va bene? Va bene, quando me lo chiedete vi darò il mio parere. Avrà a che fare con queste tipologie di maschi italiani che frequentano i contact bar. Cerchiamo di capire cosa hanno nella testa, cosa gli frulla nel cervello e perché questi vengono spinti a frequentare questi posti. Ok, il primo che abbiamo in linea... Abbiamo già uno? Eh sì, certo. Il primo che abbiamo in linea è il direttore artistico, no? Oh. Del Maxim, credo, se non sbaglio, vero? Mirko? Sì, buongiorno a voi. Buongiorno e benvenuto a Radio 24 e Fuori Posto. Buongiorno a voi. Allora, qual è il tuo lavoro? Allora, come l'hai definito tu, un po' strano. Allora, sì, io sono responsabile della Maxim Club a Chiasso. Noi siamo praticamente il primo locale che si incontra arrivando dall'Italia, quindi fuori porta. Il mio lavoro consiste nell'accogliere le ragazze, quindi delle varie nazionalità, o comunque anche insomma, cercare di organizzare un po' tutto quello che... Quindi Mirko, nel tuo locale si trovano queste ragazze, di che nazionalità sono? Allora, nazionalità le più disparate, tutte comunque con, essendo in Svizzera italiana, con un documento europeo. Okay. Quindi anche nel caso di brasiliane piuttosto che, vuol dire che hanno un documento spagnolo. Sono buone? Questo per quanto riguarda... questo è soggettivo, diciamo che c'è per tanti gusti. Okay. Ma queste ragazze, no, una volta che frequentano il tuo locale, che stanno dentro il tuo Maxim, cosa fanno con i clienti? Cioè, come avviene l'interazione? Cosa succede? Allora, le ragazze sono tutte libere professioniste all'occhio della legge, quindi io quello che loro fanno in camera con i clienti o... Che c'è una partita IVA questa? Una sorta, okay. Sì, esiste, non è proprio un discorso di tattica, ma è comunque molto simile come cosa. Anche delle parrucchiere possono essere delle libere professioniste, certo, per certo. fare un esempio. Vabbè, cosa succede dentro il tuo locale, quindi? Allora, niente, clienti arrivano, pagano un ingresso. Che quanto costa? Una consumazione, 10 franchi o 10 euro. E, buon mercato. Alla portata, dai. Sì, compresa la consumazione. All'interno possono appunto trovare queste signorine, come alcune le possono trovare addirittura sul nostro sito, quindi contattarle direttamente. Questo perché non abbiamo a che fare direttamente con quello che non lasciate nulla lavoro. A caso, giusto esatto. Semplicemente possono conoscersi e a quel punto possono prendere accordi. Al di sopra della struttura ci sono delle camere, sono tutte a disposizione della clientela. Noi siamo strutturati leggermente diversi rispetto agli altri, quindi abbiamo delle camere comunque a tema. Dici qualche tema? Cioè, che temi? Sono carine, c'è anche la sedia del ginecologo. Che ci sta, scusa? La sedia del ginecologo, ma ci vuole un po' di fantasia. Questo ci ispira, però. Gli specchi sopra il soffitto, quello più classico. Le catene. Allora, vedo dalla regia i ragazzi che sono entusiasti. Abbiamo delle camere con il letto rotondo, quadrato, cioè, per tutti i gusti, insomma. Diverse, per tutti i gusti, esattamente. E qui si consuma, tutto. Diciamo, dentro queste stanze si consuma, giusto? Esattamente. E quanto costa la consumazione amorosa? Ma guarda, ogni ragazza prende accordi diretti con il cliente, ti posso dire indicativamente se intorno, mettiamola così, per sentito dire, se intorno ai 100 franchi. Che sarebbero in euro più o meno? 90 euro. Vedi, alla fine anche insomma non è carissimo, non no? Non è carissimo. E poi sta cosa del ginecologo mi piace. Vabbè, quindi allora stai ispirando. Beh, calcola che se comunque vai con qualcuna che conosci in un motel, penso che comunque il motel lo paghi, quindi la camera è gratuita. A disposizione dei... Non fa una piega questo ragionamento. Questo non fa una piega, sì. Allora, quindi praticamente sono dei bar, dei normalissimi bar, tipo stile discoteca, mi è sembrato di capire. Tu entri, puoi fare quattro chiacchiere, non sei obbligato a consumare, no, volendo, giusto? Beh, oddio, ce l'hai già in mano, è compreso. Sei obbligato a offrire niente a nessuno. Ah, ok. No, dico, non sei obbligato a consumare la prestazione amorosa, volendo puoi... Assolutamente no. Assolutamente. Nel momento in cui acchiappi puoi andare su, no, Filippo? E a quel punto sbizzarrirti. Filippo, dove stai andando? Andando a Chiasso. Stiamo a Milano. Noi non siamo, né moralisti, né tantomeno perbenisti, né bacchettoni, quindi ognuno è libero di fare ciò che vuole, no? Cioè, sì, nel senso che ti ho detto che ci andavamo, mi sono dimenticato che sono sposato, io non posso andarci, scusa non Umberto. Non puoi. Io sono innamorato, quindi insomma, innamorato, sedotto e abbandonato, quindi mi sa che neanche io posso. Grazie. Vabbè, Mirko. Ci contiamo. Grazie a voi. Hai visto, Filippo? Va bene, abbiamo scoperto questo mondo e questi contact bar sono frequentati da un sacco di clienti. Un sacco, no? Di clienti. E noi qui, no, sempre ai fuori posto, abbiamo due tra i più assidui frequentatori. Il Mauri, sì. No? Il Mauri, il Mauri, credo Maurizio in arte il Mauri. Ah, perché ha il nome d'arte. E pensate, lui ormai è una vita che ci va. E nei contact bar... Pare, ma adesso ce lo confermerà lui dalla sua voce, che abbia anche trovato l'amore. Ma veramente? È vero, Mauri? Ma bellissimo. Ciao a tutti. Sì, è vero. Mi sono fidanzato con una ragazza che fa la escort. Ma non è la prima volta, comunque. Aspetta, ci sta dicendo una cosa che è importantissima. Cioè, tu ti sei innamorato, ricambiato, sì. Di una ragazza che fa la escort in uno di questi contact bar. Sì. Ed è un amore vero, un amore puro. Cavolo, io sono un amore vero, vive con me, è più vero di così. Cioè, convivete? Sì, conviviamo da 2 mesi. Beh, io direi applausi dalla regia, guarda, cioè, è una cosa incredibile. Caro Umberto, ecco una persona che ha trovato il suo posto in amore. Quindi possiamo dire che tu sei ai fuori posto, ma in realtà il tuo posto in amore l'hai trovato, giusto? Certo. Anche se con una escort, insomma, però hai trovato. Ma come si chiama? Possiamo chiedere il nome di questa ragazza? Non posso, per ovvi motivi, dire il nome. Ma ci racconti com'è nato il vostro rapporto, come vi siete conosciuti? Niente, io l'ho conosciuta a Lugano, mi piaceva, ho iniziato a corteggiarla, abbiamo iniziato a uscire e alla fine ci siamo messi insieme. Come la corteggiavi? La corteggiavo in tutti i modi, l'ho invitata fuori a cena, non so, andavo spesso a trovarla al locale, non so, per esempio, ho mandato un mio amico a prendere in stazione, così almeno non aveva, non doveva fare il tragitto con la valigia, tante piccole attenzioni, comunque le stesse attenzioni che dareste a una ragazza che non fa il suo lavoro. Ecco, intanto, piace, intanto Mauri, scusami se ti blocco un secondo, perché i nostri social e il nostro numero di SMS e WhatsApp, che lo ricordiamo al volo, è il 349 23 86 666, è impazzito, è letteralmente francese. Sì. Sì, sì. Dice Francesca, comunque, dice Francesca, ti leggo il messaggio di Francesca, che ci dice: caro Mauri, sei uno sfigato, dovresti vergognarti. Pagare per avere una fidanzata, come rispondiamo, no, a Francesca? Tante, guarda che io non pago assolutamente niente a lei. Pagavi niente, al massimo, giusto? Forse ho pagato le prime due volte che sono stato. Ma Francesca, ma che cazzo dici? Pagava, adesso non paga più. Ma chi paga? Mi costa di meno lei, che ha un lavoro che guadagna tanti soldi, anzi mi fa pure regali. Ma quindi tu devi pagare soltanto... Se dovessi uscire con una tipo la Francesca, minchia, di quanti soldi che devo tirare fuori. Ma magari non me la dà neanche, quindi guarda, sfigato proprio per niente. Cioè, e tu poi... dici meglio la escort che la ragazza normale, ma che certo, ti costa di più. Ma c'è, cioè, quando una ragazza è una brava ragazza, che faccia la escort o che faccia la panettiera, ma non me ne frega niente, l'importante è che si comporti bene con me. Comunque qualche sera sei stato brevissimo, cioè tu sei riuscito a conquistare una escort pagandola soltanto due volte. Sì, sì, e poi cioè, prima comunque di uscire ci siamo visti parecchie volte. Io adesso che la conosco sarà circa 5 mesi, è 2 mesi che siamo insieme. Quindi il Mauri ha una sua teoria, no? Che lui dice: io devo uscire magari con Francesca o con un'altra. Sì, mi costa, la devo portare a cima, mi costa il cima, la devo portare a cena, mi costa la cena. Poi teatro. Teatro, poi magari non me la dà, ho buttato i soldi. Invece... Sì, poi comunque la mia fidanzata lavora e fa un lavoro dove guadagna bene. Senti, ma dici la verità, adesso che ti sei fidanzato, non ci vai più in questi contact bar, immagino? Certo che ci vado, io vado al Corona, lei lavora al Maxime, io vado al Corona. Che è un altro contact bar, giusto? Sì, così non la vedo mentre lavoro. Ah, però, perché comunque... ti dà un po' fastidio se dovessi vederla o no? Certo che mi dà fastidio, normale. Dici tu, occhio che non vede, cuore non duole, no? Bravo, bravissimo. È l'amore, però comunque vedere la serie con un cliente ti mette sempre una certa ansia. Quindi preferisco andare al Torone che mi diverto. Deborah dice, che ci scrive, più che di sei da rinchiudere. È un bordello, però. Chiude al Corona, guarda, ci passo praticamente la mia seconda casa. Da quando ho 25 anni che vado. Facci capire un po' di te, no? Sei molto curioso. Tu dove abiti in realtà? Ma io sono bergamasco, ma abito a Como. Tu abiti a Como, cosa fai nella vita? Sì. Ma nella vita faccio rappresentante. Di che? Vendo utensili. Tu vendi utensili? Meccanica. E cosa fai tutte le sere da Como? Salti in macchina e te ne vai in Svizzera? Ma non tutte le sere, vado il mercoledì, venerdì e sabato ci sono le serate col DJ. È come andare in discoteca, però... c'è chi va in discoteca, chi va nella balera, chi va a mangiarsi una pizza e lui va a zoccola. Chiamalo scemo. Ascolta, quando... Poi io penso che ognuno si debba divertire. Una volta che io sono soddisfatto di quello che faccio, non devo... Cioè, a me, anche se mi giudicano, non mi interessa. L'importante è che sono contento io, poi. Allora, ovviamente, niente, siamo sommersi dai messaggi. Nicole dice: ma sei vero o sei matto dalle gare? Ma guarda, sarò anche matto dalle gare. Comunque io, oltre a essere, diciamo, un personaggio nei contabar, perché li frequento da più di 20 anni, sono anche un personaggio su un sito internet di settore che è Gnocca Travel. Il mio nome è Macaos. Quindi se qualcuno vuole vedere chi sono, lui è anche come se fosse un critico culinario, no? Cioè, esatto, gastronomico. Esatto, cioè, lui c'è chi le bravissimo. Fa per la Michelin e lui le fa per le signorine. Io faccio recensioni, racconto le serate dei locali. È un sito amatoriale che parla esclusivamente di questo. Comunque, diciamo la verità: adesso noi dobbiamo rispettare anche il pensiero di chi è contro, no? Vabbè, ma è naturale, ogni testa. La sua idea. Ma Caos, mi togli un'ultima curiosità, ma quando tu vai all'altro contact bar, la tua fidanzata escort, si incazza? No, lo sa benissimo che ci vado. Bello, quindi siete una coppia aperta, fantastico. Cioè, lei non, beh, non è gelosa che tu consumi con altre ragazze, con altre siamo ex. Nel 2016. Beh, sul fatto che io consumo con altre ragazze. Non siete retrogradi, ragazzi. Sì. Siamo nel 2016. Ascoltate Macaos. Volevo specificare una cosa. Io da quando sono insieme a lei non sono più salito con nessuna ragazza, che sia chiaro, perché per me è un lavoro, per me sarebbe divertirmi. E quindi salire significa consumare, no? Quindi sei fedele. Cioè, ma come te, resta con noi, perché sì, i nostri radioascoltatori, insomma, sono appassionati, perché sia i social che il numero di WhatsApp sta impazzendo, no? E come te, no? C'è un altro ragazzo, no? Un altro cliente che addirittura lui è partito come cliente, no? Ma ha trovato il suo posto, la sua collocazione ideale, il suo posto di lavoro. In cioè questo ha caso, trasformato lobby in lavoro. Sì, sì, pare che lui detenga il record di visite consecutive in uno di questi locali. È vero, Andrea? Sì, ciao a tutti. Ciao Andrea. A quanto ammonta il tuo record? Quante visite consecutive hai fatto? 28 sere di fila. Beh, applausi per Andrea, applausi per Andrea. Te sei rovinato però. No, dopo la ragazza è partita, ho smesso. Logicamente per qualche settimana ho smesso, poi ho ricominciato. Ma dico 28 sere di sito, quanto hai pagato? Quanto ti è costato? Un pochino. Qualche volta ho consumato, mi è capitato solo di uscire per qualcosa. Non è che ho consumato per 28 sere di fila. Se no ti serviva un vagone di Viagra. Senti, esatto. Andrea, allora, siccome è un argomento molto caldo e i nostri radioascoltatori insomma lo stanno apprezzando molto, sì, no? Ci sono ovviamente i pro, i contro, chi insulta, chi invece vi fa i complimenti. Allora, resta con noi qui su Radio 24 e Fuori Posto. Noi facciamo qualche minuto di pausa e torniamo tra pochissimo, sempre con il Mauri, Andrea e tanti altri ospiti, forse anche una protagonista, sempre qui ai Fuori Posto su Radio 24. A tra poco con i nostri amici dei Contact Bar. Il mondo visto dai ragazzi. In questi mesi Radio 24 ha dato spazio alle voci di Radio Immaginaria, una web radio gestita da studenti delle scuole superiori di tutta Italia. L'appuntamento dal vivo è per il 10 e 11 settembre con la Team Parade a Castel Guelfo di Bologna. Un meeting sul lavoro spiegato dagli adolescenti. Ci sarà anche un evento speciale con il nostro Federico Taddia. Info su radio24.it. I Fuori Posto. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Eccoci qua, di nuovo ai Fuori Posto. Filippo, la chiamavano bocca di rosa, no? Una prostituta, cantata da De André e... La storia di una prostituta. La storia di una prostituta che aveva fatto impazzire un paesino, no? E alla fine le mogli dei clienti si ribellano, si rivolgono ai carabinieri e lei viene cacciata via da questo paese. Invece al contrario c'è tanta gente che le va a cercare queste prostitute e se ne innamora pure, perché stiamo parlando dei frequentatori dei contact bar, ricordiamolo, no? Perché non ci avesse ascoltato prima. Che sono questi contact bar? Sono dei bar disco bar, dove alla base c'è un bancone dove puoi prendere qualsiasi consumazione, bevi, frequentato dal 95% da signorine, escort, di varie nazionalità, prostitute brasiliane, italiane, c'è la multietnicità, no? La globalizzazione, cosmopolitismo. Tu entri, rimorchi, ed è molto facile rimorchiare anche io e te, secondo me avremo successo nei contact bar. Se ti accordi sul prezzo, dietro l'auto a somma di 90 franchi, credo, 90 franchi, sì, 90 credo, euro, 90 euro, 100, con centinaio di con euro, un centinaio di euro, rimorchi e fai l'amore. E puoi andare ai piani di sopra, dove ci sono delle stanzette a tema, no? Tema ginecologo, tipo supereroi, dove puoi, insomma, consumare il. Io ti dico questo, dove puoi far l'amore, perché dici. Tu parli di amore mentre stiamo raccontando di prostitute, di ragazze che si concedono a fonte di denaro? No, perché noi abbiamo scoperto che molte persone, molti ragazzi, molti uomini che frequentano questi posti poi si innamorano. Si innamorano. Di questi come escort. Il Mauri, giusto Mauri? Sì, è giusto. Ok, è giusto. E c'è invece chi è partito come assiduo frequentatore, no? E poi ha smesso di essere un fuoriposto, cioè è stato assunto da uno di questi contact come responsabile, giusto? O uno dei responsabili, giusto Andrea? No, sono un semplice dipendente. Dipendente. Però ti auguriamo lunga vita e lunga carriera anche. Cosa fai? Vi ringrazio. Faccio manutenzioni, sicurezza. Di che? Allora, tutto di più. Okay. Ok, quanti anni hai, Andrea? Io ho 36 anni. Di dove sei? Sono di Varese. E cosa facevi nella vita? Prima facevo il giardiniere. Quindi hai trovato una tua collocazione, un tuo posto, ma esatto. Nasce come una passione, no? Tu all'inizio andavi lì per avere a che fare con queste signorine. Ma mi togli una curiosità, una cosa che non ho chiesto prima a Mauri, ma a questo punto la chiedo a te, visto che sei anche il recordman delle frequentazioni di questo posto. Dimmi tutto. Ma quando tu ti accoppi, no, con queste ragazze, capita anche... ti accoppi, cioè fai l'amore. Cioè, l'amore, scusa, hai ragione, hai ragione. Quando tu fai... quando tu fai all'amore con queste ragazze, ma capita che loro raggiungano il piacere? È difficile, però qualche volta è capitato, però è difficile, dipende qualche dalla situazione che si crea. Magari se crei un bel rapporto d'amicizia e tutto, è capitato che magari una si lasciava andare, perché tanto è una questione di testa, quindi... Ascolta Andrea, ma Mauri sappiamo che è fidanzato con la escort che ha conosciuto al Maxim. Tu sei fidanzata attualmente? Assolutamente no. Sei single? Sono single. Sei single? Sì, sì, sì. Vabbè, chi l'ammazza ormai... E un po' lo invidi, Mauri, che ha questa storia d'amore con la escort? No, invidiare no, sono contento per lui perché è un bravo ragazzo, lei è una brava ragazza e sono contento per loro. Certo. È la ragazza, bello, no? Insomma, che... Ma, Mauri, tu le presentate ai tuoi genitori, questa ragazza? No, la presenterò presto, mio papà non c'è più, ma mia mamma gliene ho già parlato. Come è contenta? Sei una brava ragazza, non ci sono problemi. Una volta che piace a me, piace anche a mia mamma. Ma lo sa mamma che sta ragazza fa questo mestiere? Sì, sì, lo sa, lo sa. E va bene. E che ti ha detto? Cioè, tu come sei andato? Allora, perché mi interessa questo passaggio. No? Tu sei andato da mamma e hai detto, cara mamma. Cara mamma, ancora una volta mi sono fidanzato con una escort. Ah, perché sei recidivo? Sì, l'anno scorso ero fidanzato con un'altra, la conosciuta mia mamma. Ma cazzo, sarebbe... Ne ho avute parecchie, io ho 20 anni, 25 anni che frequento Costa Bar. Ma ditemi una cosa, tutti e due, se vi va, voi siete dei gran frequentatori di questi posti, però voi riuscite anche a conoscere o uscire con una ragazza normale, tra virgolette, una che fa l'impiegata, una che lavora alle poste? Parlo io. Vai, parla tu, parla tu. Sì, sì, sì, certo. Cioè, o hai problemi? Cioè, no, nessun tipo di problema. Tipo l'ultima volta che sei uscito con una ragazza che non aveva a che fare con questo mondo? Ma boh, 6 mesi fa, 7 mesi fa. Quindi tanto? Ma se sono 4 mesi che frequento una ragazza, con le altre non ci esco. E tu Andrea invece con le ragazze cosiddette normali riesci a avere rapporti? Diciamo che esco poco perché la maggior parte delle serate le passo qua al lavoro o nei vari locali. Però mi capita spesso di uscire magari in settimana quando ho la giornata libera, di uscire anche con qualche ragazza normale. E come ti trovi con le ragazze normali? Ah, è normalissimo, anche perché le ragazze che lavorano in questi locali per me sono normali. Quindi, a parte il lavoro che una fa, ognuno è libero di fare. Ma sì, che poi vuole. In effetti che fanno di male queste? Cioè, fanno un mestiere, lavorano. Fanny ci scrive: voi due siete fuori di testa. Secondo me andreste rinchiusi. Cioè, sta cosa del manicomio ricorre, no? Cioè, anche sì, prima. Sono molto criticati, ma come mai? Perché secondo voi c'è tutto questo odio da parte delle ragazze italiane o comunque ragazze? Penso che non lo so, guarda, io credo che le ragazze italiane. Non lo so, hanno veramente dei pregiudizi verso l'italiano che va a mignotte. Quando, francamente, ti dico, ognuno è libero di fare quello che voglia. Vabbè, certo, viviamo in un paese libero. Certo. Ma poi, tra parentesi, noi dobbiamo andare in Svizzera per farlo, perché in Italia non ci sono questi posti. Volete fare un appello ai nostri politici? A Mattarella, affinché anche in Italia vengano aperti i contact bar affinché ci siano le autorizzazioni per questo tipo di attività. Rivolgiti a Mattarella, caro presidente, caro presidente. Aspetta, che ti ascolta, ti ascolta, vai. Magari ti sta ascoltando, no? Perché magari il presidente ascolta Radio 22, ascolta noi, no? Certo, tutto è possibile, tutto è possibile, no? Anche allora, questo. Momento istituzionale, musichetta istituzionale e vai. Caro Presidente, vorrei capire perché in Italia, a differenza di altri paesi civili come la Svizzera, la Germania e l'Austria, viene permesso la prostituzione illegale e non quella legale. Questa cosa io non la riesco a capire, non riesco a capire perché dobbiamo vedere le ragazze per strada, quando invece in Svizzera non se ne vede nemmeno una, e non riesco a capire perché non dobbiamo prendere degli introiti a livello di tasse a questo mondo che, se vediamo in Germania, in Svizzera e in Austria, danno una parte molto importante di quello che riguarda il gettito fiscale. Io non lo riesco a capire. Perfetto, ha capito, Presidente? Ascolti Mauri. Il Mauri ha trovato anche l'amore in uno di questi bordelli, cioè i bordelli di Contact Bar, giusto? Sì, sì, sì. Cioè, e invece... parliamo di gente che ha trovato lavoro, che ha trovato amore, bellissimo, noi... eh? Sì, sì, sì, sì, cioè nel senso che noi stiamo nel mezzo, no? Ospitiamo chi è pro, chi è contro, insomma, certo, poi certo. Ognuno si fa un'idea. Invece, Filippo, la cosa che mi interessava di più, sai che era? Le protagoniste, no? Certo, porca miseria, cioè proprio quelle che lavorano nei Contact Bar. Sì, le protagoniste, le ragazze, no? Non mi dire, Umberto, che abbiamo una di loro? Te lo dico, perché qui ai Fuori Posto, a Radio 24, tutto è possibile. E chi abbiamo? Chi abbiamo? Abbiamo la protagonista, no? Che è Iside, giusto? Che è una delle ragazze che lavora come escort in questi Contact Bar. Ci sei, Iside? Sì, ciao, buongiorno. Ciao Iside, che onore conoscerti. Piacere mio. Beh, intanto grazie, intanto grazie, perché sappiamo che magari per chi fa un lavoro come il tuo non è facile, no? Intervenire. Quindi intanto allora, grazie. Innanzitutto, no, prego, figurati. Innanzitutto smontiamo un mito, ci tengo tanto. Non mi sento di definirlo lavoro. Per me è... divertimento? Ma io l'ho sempre definito, e non mi stancherò mai di ripeterlo, un divertimento remunerato. Mi togli una curiosità, ma... Tutte quelle che vuoi. Tu quando... Tutte? Tutte? Perché a questo punto ne approfitto. Ascolta, quando tu, cioè tutto, ti apparti con il cliente e ci fai l'amore, ci fai del sesso, noi abbiamo parlato con dei frequentatori come il Mauri, come sì. Andrea, che in certi casi hanno trovato anche l'amore, no? Quindi una corrispondenza. Quando tu vai con un cliente, provi del piacere, cioè raggiungi l'orgasmo? Allora, nel 90% dei casi, prescindendo dall'orgasmo, mi dà piacere, per il semplice motivo che ci scegliamo reciprocamente. No, io parlo proprio di orgasmo, sì. Cioè il momento del culmine del piacere. Cioè, scusa, vi scegliete reciprocamente? Ma devi capire che una donna è fatta diversamente da un uomo. Per la donna il culmine del piacere non necessariamente è l'orgasmo. Cioè, è proprio il culmine, sì, ma una donna riesce anche a godere pur non avendo l'orgasmo. Ho sbagliato tutto nella vita. Ma veramente? No, dai! Ma noi sempre con st'angoscia dell'orgasmo, no. No, per noi è differente. Scusa, c'è proprio un piacere prolungato. Scusa, tante volte può anche non sfociare nell'orgasmo, è piacere puro. Mi interessa una cosa che hai detto, ci scegliamo reciprocamente. Che vuol dire? Sì, che spiegami che vuol dire ci scegliamo reciprocamente, che se io vengo e non ti piaccio, però sono disposto a darti 100 euro, tu mi dici di no? Se non mi piaci, perché comunque non mi piace quello che tu vuoi fare in camera, non ci incontriamo come gusti, per me no, da parte mia no. Perché che richieste ricevi? Sai, ogni persona ha le sue fantasie, ha le sue voglie, l'importante è incontrarsi a livello di voglie. Scusa, ad esempio, la più brutta che hai ricevuto, quella che hai detto proprio no, quella che ti ha fatto proprio schifo, che voglia era? Di vari tipi, magari quando un uomo ti chiede di fargli, per dirti, situazioni paradossali, magari il tipo che ti chiede di sprezzarlo, ecco, quindi, cioè, tipo gente che gode nell'essere disprezzata? Cioè, allora, il sadomaso è piacevole, perché comunque incontra anche i miei gusti, se parlando di me, sì. Però magari il sadomaso estremo, dove poi si passa a una violenza o ecco, già più inaudita, no, non si confà al mio modo di essere, quindi per me no. Ecco, mi sembra che tu hai una tua sensibilità. Ti è mai capitato di innamorarti di un cliente? Un botto di volte. Addirittura un botto di volte. Un botto di volte. Anche Mazza. Perché poi io sono un po' gerontofila, mi porto dietro il complesso di Elettra, quindi quando... Ti piacciono i vecchi? No, dai, sei volgare, no, mi dispiace, io non li è volgare, dai, mi piacciono gli uomini passati maturi. 50, perché sì, ma manifestano il proprio... Passati 50? Io ce l'ho 51. No, Filippo mo fa lo spiritoso, ma tra poco ci arriva, quindi Filippo potrebbe essere il tuo tipo, mo peccato che è sposato. Ma un uomo già, allora, un uomo dai 50 in su sa amare, sessualmente parlando. Addirittura? Sa soddisfare una donna. Non c'è quel calo del desiderio dopo 50 anni, quell'ammosciamento, no. Scusate il termine. Assolutamente no, a letto ti mostra proprio il suo carico di esperienza, cazzo ci sa fare. Quanto guadagni al mese, Iside? Quanti soldi porti a casa ogni mese? Ma sai, il guadagno è orientativo. Ma che ci frega del guadagno? C'è l'amore, c'è il piacere, no? C'è dei soldi. Io te l'ho definito all'inizio, non credo di aver sbagliato nella definizione. Un piacere remunerato, fine. Quindi dei soldi te ne porta poco? Te ne frega niente? No, soldi me ne porta tanti. E giustamente, essendo donna, sicuramente mi diverto. Più di 10 20. Siamo 20.000 euro al mese? 20.000 euro al mese. Sì, poi togli spese, magari qualcosa meno, ma siamo lì. No, 20.000. Beh, questo è uno stipendio da amministratore delegato di un'azienda, insomma. Cioè, questo è... Ma la differenza però è che non hai responsabilità e che ti diverti da morire. E ti diverti da morire, vedi? Da morire. Senti, invece... Qualcuno fa uso di pasticchette, Viagra, insomma, che danno un aiutino? Ma guarda, noi ovviamente qua non ne siamo forniti, come ben saprai, quindi non so io se prima di un incontro possa prenderlo o meno. Ma tu riesci a capirlo? Lo riesci a capire se un cliente ha preso l'aiutino? Sono sincera, nel 90% dei casi no. Mm-mm. No, e ma... comunque non rappresenta un problema, perché non, cioè, certo, ognuno sa se ha quella necessità o meno, mi interessa come ama. Tu dici che, come nel calcio, l'importante è il risultato finale, giusto? Il gol. Esatto, il gol. Fare ma, gol. Mauri, tu hai mai fatto uso di aiutini? Certo. Certo. Senti, invece adesso, Filippo, caro Filippo, io voglio dire ai nostri ospiti, no? Che tutti i loro discorsi, queste amabili conversazioni, giusto, sono state ascoltate, no, dalla dottoressa Cristina Bellocchio, che è psicologa ma anche sessuologa. Quindi ci può fare un'interessante analisi dei soggetti che abbiamo appena ascoltato. Allora, ci sei, Cristina? Sì, ci sono. Allora, noi ringraziamo Iside, Mauri e Andrea, no? E insomma, perché non è facile di parlare. Ci hanno messo la faccia, no, non sono stati. Non è facile, no, parlare, non è facile parlare di certi argomenti. Quindi li ringraziamo, li salutiamo. Gli diamo sempre qui appuntamento ai Fuori Posto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Radio 24. E parliamo con Cristina Bellocchio, la dottoressa Bellocchio, che è sessuologa. Ecco, allora, Cristina, che idea ti sei fatta di questi personaggi, di Andrea e Mauri? Allora, sicuramente andare con una escort è sempre un'esperienza gratificante per un uomo, perché comunque non devi conquistare una donna, non devi in un certo senso entrarci in relazione, sono donne che non fanno richieste, quindi non ci sono conflitti, non ci sono pretese da parte di queste donne. E quindi per l'uomo è un'esperienza sempre molto gratificante. Quindi è questa l'attrattiva che hanno probabilmente gli uomini, cioè nel senso io pago e quindi io ho un'esperienza positiva e questo toglie tutte le insicurezze. Cioè, e come giudichi il fatto che a un certo punto questi uomini si innamorano o si illudono di innamorarsi di queste donne e di essere soprattutto ricambiati? È possibile questo? Beh, io ci credo che Mauri si sia innamorato di questa donna. Non ci credi che la donna si sia innamorata di lui? Di verità. È un rapporto un po' sbilanciato, perché comunque certo, anche se lui continua a frequentare con Contact Bar, sì, però lui non ha rapporti con altre donne, mentre lei sì, ha rapporti con altri uomini. Lui è sbilanciato il rapporto, anche se è il suo lavoro, però lui sta accettando un qualcosa che comunque gli dà fastidio, perché lui dice io non vado dove lavora lei perché altrimenti mi ingelosisco. Senti, poi sia Mauri che Andrea, no? Tutti e due ci hanno detto in modo molto convincente e serio che quando vanno con queste escort, con queste prostitute, le donne in molti casi provano piacere. Secondo te è possibile? Certo. È credibile? Può succedere, ma non è detto che succeda sempre. È chiaro che la prostituta deve dare un segnale che quest'uomo, diciamo, è capace e quindi deve far vedere che lei prova piacere. Tu dici un po' come quando ti vai a comprare, che ne so, un maglione e la commessa per dire caspita ti sta bene, no? Giusto? Certo, sì, esatto. È proprio quello il ruolo della escort. Dottoressa, è stata chiarissima e gentilissima, grazie per la pazienza di aver ascoltato i nostri amici, la salutiamo e a presto, ci risentiremo. A presto. Eh sì, caro Filippo, ho come l'impressione che la nostra amica escort, dietro una lauta ricompensa, potrebbe innamorarsi anche di me e te. Anch'io ho questa impressione. Ma caro Umberto, adesso è arrivato il momento della viabilità. In un'epoca che vuole la mediocrità, è giusto rischiare per valorizzare il proprio talento? In Italia ci sono 1.600 bambini a cui è stata uccisa la mamma. Chi si prende cura di loro? I cinesi si salutano a caso o si riconoscono? Viaggio nel mondo degli stereotipi. Sono le domande che ci poniamo a Spunti di Vista, tutte le angolature dell'attualità. Sono Irene Zerbini, vi aspetto il sabato alle 8 e la domenica alle 7.15, naturalmente qui su Radio 24. Fuori posto. E rieccoci qua, bentornati ai Fuori Posto, sempre qui su Radio 24, no? Filippo Roma e Umberto Alezio qui accanto. E oggi parliamo di un fuori posto per eccellenza, no? Sì, uno di quelli che cercano il loro posto, il proprio posto dietro le telecamere, quelli che cercano il proprio posto attraverso la visibilità, sì, attraverso questa fame di visibilità in televisione, no? E diciamo che più che un fuoriposto è quasi ai limiti della follia umana, no? E ai limiti della follia umana, perché sì, oggi parliamo degli esibizionisti, no? Sì. Specifichiamo bene, gli esibizionisti non sono quelli con l'impermeabile, non sono quelli come Filippo, no, che vanno al parco, no, con l'impermeabile, no, e poi aprono, anche se poi lì c'è poco, c'è da vedere. Poco da vedere, sono quelli che vogliono apparire tutti i costi in televisione, sono quelli che si chiamano anche i presenzialisti, no? Sì, sì, i presenzialisti, uno su tutti, noi lo ricordiamo, il re dei presenzialisti è Paolini, no? Paolini è stato il primo, è quello che si è inventato questo genere, no? È stato il primo che si piazzava sullo sfondo delle inquadrature dei telegiornali, delle trasmissioni, e si faceva notare così, come figura passiva ma presente in tutte le trasmissioni. Ecco, io mi sono informato, ho letto, ho trovato un po' di cose in rete. Paolini è stato definito da molti un cosiddetto presenzialista aggressivo, no? Invasivo, perché, come perché, no? Perché ricordiamo su tutti, no, la famosa scena con Fraiese, credo, no, Filippo? Quella è passata la storia, perché Fraiese non sopportò, inviato, diciamo, del TG1, inviato del TG1, non sopportò l'incursione di Paolini e lo prese a botte. Che diciamolo, Paolini non si limitava solo a stare dietro l'inviato, sì, ma a disturbare, interveniva, no, durante le dirette. Sì, lui si divertiva proprio a interferire, a interrompere, a creare un cortocircuito durante la diretta. Ma poi nel tempo questa figura, diciamo, si è attenuata, perché i suoi successori hanno svolto una funzione un po' più soft, diciamo, si limitano attualmente a stare dietro l'inquadratura senza interferire, senza rompere le scatole. Ecco, un fuoriposto e un esibizionista per eccellenza è Nicky Giusino, un ragazzo di 20 anni, definito da molti il degno erede di Paolini, proprio perché si piazza dietro le telecamere. Lui, sicuramente l'avrete notato, è un po' un po' paffuto, rosso, è giovane, perché è una nuova leva, diciamo, è una promessa del presenzialismo italiano. Lui ha una radiolina e un piccolo televisorino e vede si aggira di solito al Parlamento, dove ci sono anche fatti tragici, vede dove ci sono gli inviati, le dirette, e si piazza proprio dietro gli inviati e ha guadagnato già tantissimi passaggi televisivi. Sì, non si fa sfuggire neanche un evento, tant'è che è diventato anche lui famoso, cioè la gente lo riconosce per strada. Sì, ha un proprio sito internet, so anche, è diventato una piccola star. E Filippo, la domanda che ti faccio, noi dei Fuori Posto potevamo farci sfuggire la ghiotta occasione di ospitare uno come Nicky Giusino? Ma proprio no! E Nicky Giusino è qui con noi e Fuori Posto. Ci sei, Nicky? Sì, mi sento, ciao. Ciao, Nicky. Sta bene? Sì, sì, insomma. Dove sei? Dove sei? Sto al Parlamento, sto. A fa che? Che stai a fare al Parlamento? Sono sempre in agguato a caccia di telecamere. Oggi quanti passaggi televisivi hai fatto? Oggi sono stato alla manifestazione contro la Banca Etruria, sono stato al TG1 e TG5. Passaggi d'alto livello. Beh, sono sempre telegiornali, fanno 5-6 milioni, anche se a me mi piace solamente Mediaset. Io tra Rai e Mediaset preferisco la Mediaset, perché la Mediaset la scelgono i giovani, capito? Nicky, raccontaci la tua storia, tu quanti anni hai? Io mo ce n'ho 21, ho iniziato all'età, nel 2010, quando è morto Francesco Cossiga. Hai iniziato, quindi eri giovanissimo, quanti anni avevi? 5 anni fa, 16 anni. Tu a 16 anni già apparivi in televisione. Scusa, che vuol dire, per chi ci ascolta a casa, che vuol dire ho iniziato quando è morto Francesco Cossiga? Io mi trovavo lì perché ho subito un dolorosissimo intervento alla colonna vertebrale di 12 ore. All'ospedale dove è morto? Sì, al Gemelli. Allora ho visto tutte queste telecamere, io ho avuto sempre il sogno di apparire in televisione. giustamente qui in televisione se non dai qualcosa del tuo a qualcuno. Ma amore, non esageriamo. Non esageriamo. E quindi sei... Filippo è talmente brutto che può io dare? Io infatti ho dovuto fare per forza con le mie forze. Quindi tu per la prima volta hai trovato, hai scoperto il fascino della telecamera, di essere inquadrato. Ah, io ci ho sempre avuto la televisione in testa, perché sono ragazzino in carica, che poi fa da grande, il giorno ti dice il poliziotto, il giorno dopo il pompiere, il giorno dopo l'astronauta. Io ho sempre detto televisione. Ci spieghi cosa ti frulla per la testa? Cioè, perché senti questo bisogno spasmodico di apparire in televisione? Perché a me mi è sempre piaciuta la popolarità che la gente ti ferma per strada, capito? Uno dice sei folle, però almeno... Ma scusa, e cosa provi quando ti fermano per strada? Perché ti piace così tanto essere riconosciuto? Perché nei amici ne puoi avere tanti. Solamente poi quelli che ti chiamano sono sempre gli stessi quattro gatti, capito? Mentre per strada conosci gente nuova, gente che mi ammira pure, perché dice ma come fa questo qui, sta più in televisione di Renzi, mi dicono. È vero che alcuni giornalisti addirittura ti chiamano? Sì, mi chiamano per dirmi ma che sai, dove sta questo, dove sta quello, io dico guarda se ti dico dove sta, però mi fa una bella inquadratura, perché insomma... Ah, ecco, quindi tu dai informazioni in cambio di inquadrature. Tu contratti, cioè praticamente molti giornalisti, ovviamente non diciamo i nomi, ma praticamente ti usano come fonte, no? Sì. E tu contratti, cioè la tua moneta di scambio è l'inquadratura, l'apparizione, giusto? È l'inquadratura la mia moneta di scambio. Te mi dirai, ma mica campo solo di quello. Appunto, uno si chiede, ma Niki, che sta tutto il giorno al Parlamento, come fa a campare? Come tira fuori i soldi per fare la spesa, per mangiare? Certo, perché Niki, quando appare, ovviamente sono apparizioni volontarie, anzi non richieste, quindi non viene pagato. Quindi la domanda che ti facciamo noi, ma anche chi ci ascolta da casa, per esempio Francesca ci scrive: Niki, ma come campi, come passi la giornata, come fai a mangiare? Io fortunatamente sto sotto il tetto dei miei genitori, quindi non ho spese luce, acqua, gas, percepisco un piccolo stipendio da YouTube e da Google, che so partner. Ah, perché... Uno stipendio? Che sei assunto? Sei un dipendente di Google? Perché lui ha un sacco di visualizzazioni, perché Niki, andando in video, no? Rimedia un sacco di visualizzazioni e quindi percepisci sì, dei piccoli gettoni, no? Il giusino che ho con Niki Giusino e il sito mio, insomma. Ma la gente mi va a cliccare perché dice chi è sto fulminato? E parte la marchetta. Quando... perché la gente quando mi ferma per strada non è che tutti sanno il mio nome, come Filippo Roma, lo sanno perché insomma è conosciuto alle Iene e tutto quanto. Mm. Ma che ti dicono quando ti fermano? Che ti dicono? Mi dicono Roscio, stai sempre in mezzo al carro. Ah, ho capito, Senti, ma sappiamo l'ultima cosa, poi intanto tu hai il numero delle apparizioni che hai fatto in TV? Io fino ad oggi ne ho fatte 12.700 e qualcosa. Cioè, perché tu... non le posso contare. Caspita, cioè io sono un imberbe rispetto a te. Zero. Senti, e il record in assoluto è sempre quello di Paolini? Vabbè, Paolini però è disturbatore. Ah, ok, quindi perché Paolini, quello che dicevamo prima, disturba. Perché Niki, tu, spiegamolo, non sei invasivo, no? Cioè, non disturbi. Diciamo che io disturbo con la mia immagine, perché se uno da casa sta seguendo un intervistato, no? E poi dietro me ci metto io, da casa lo spettatore ti toglie l'attenzione. No? Tutti si concentrano su di te. Tutti su di me, capito? Poi sono pure bello grosso, ho tanti lardi addominali. Infatti, ma scusa Niki, ma ora hai 21 anni, no? Ma in futuro come ti vedi? Eterno presenzialista? In futuro me lo auguro sempre in televisione. Solamente ho fatto tanti appelli a Maria De Filippi, se mi fa fare il postino c'è posta per te. Quindi Niki, il tuo sogno è fare il postino per Maria De Filippi. Noi ti lasciamo 15 secondi, magari Maria in ascolto, perché qualcuno mi ha detto che potrebbe ascoltare i Fuori Posto, no? Mi sa che è una fan dei Fuori Posto. Mi sa che è una fan. Beh, non è confermato. Salutiamo Maria. Niki, 10 secondi per te per convincere Maria De Filippi a farti fare il postino, c'è posta per te. Allora Maria, io sono un volto noto, giovane, bello, pulito, paffutello. No, non ho mai fatto marchette per entrare in televisione, sono sempre stato di mia spontanea volontà e vorrei avere un posto di lavoro, magari a media, se sta a fare il postino c'è posta per... Va bene, grazie Niki, in bocca al lupo e insomma ti auguriamo tante e tante altre apparizioni. Ciao Niki. Ciao Niki, grazie, ciao. Allora, abbiamo appena ascoltato Niki Giusino, quel ragazzo un po' roscio e paffutello che vedete spesso nelle inquadrature degli inviati del TG1, del TG5, di tutti i telegiornali, il cosiddetto presenzialista. È quello che è interessante, che dice Niki, che visto che la TV non lo vuole, se la prende direttamente lui, entra direttamente in televisione, no? Di forza. si afferra, se la prende. Allora Umberto, devo darti una brutta notizia a te e agli ascoltatori, perché il programma per oggi finisce qui. Ma prima ricordiamo i nostri contatti. Certamente, fuoriposto@radio24.it se volete scriverci una mail, oppure se volete lasciarci un messaggio in segreteria allo 02 465 24 182, oppure se volete raccontarci perché e quando vi siete sentiti fuori posto, potete mandarci un messaggio sulla nostra pagina ufficiale Facebook I Fuori Posto, oppure whatsapparci al 349 2386 666. Per oggi è tutto, noi vi aspettiamo domani puntuali alle 10 su Radio 24. Mi raccomando.